In alcune liturgie dei santi la Chiesa permette che al posto della prima lettura si faccia la lettura agiografica, cioè la lettura della vita di quel santo. Perché questo avviene? Questo avviene perché il santo, la vita del santo è quasi come un Vangelo, una parola di Dio vissuta, cantata. L'esempio che io porto spesso è questo: se io leggo una pagina musicale e non conosco la musica, non imparerò mai quel canto. Ma se c'è un cantante che sa leggere la musica e me la canta, io dalla voce del cantante imparo anch'io a cantare. Tante volte la parola di Dio è semplice, facile, però se vedo un santo che la esegue con la sua vita, guardando la vita del santo, io posso viverla. È per questo che dove ci sono dei grandi santi, normalmente generano delle famiglie religiose. Sant'Ignazio, fondato i Gesuiti, Francesco, i Francescani, Don Bosco, i Salesiani e così via, insomma, ancora oggi. Allora vi leggo la vita di San Carlo Borromeo, che è nato qui sul Lago Maggiore ad Arona il 2 ottobre del 1538 dalla nobile famiglia dei Borromeo. Era consuetudine in quel tempo dell'alta società che il secondogenito non dividesse l'eredità col primo. L'eredità doveva restare unita, e allora il secondogenito veniva avviato alla vita, chiamiamola, alla carriera religiosa. Quando lo zio di sua mamma divenne papa col nome di Pio IV, Carlo Borromeo fu subito chiamato, aveva solo 22 anni, a Roma come il primo e più stretto collaboratore del pontefice. Studiando la storia, questi fenomeni sono chiamati il nepotismo, cioè i parenti stretti del Papa, insomma, erano cooptati nella corte papale. E così avviene anche con Carlo Borromeo, solo che Carlo era un uomo di valore e quindi fu una fortuna anche per il Papa e per la Chiesa, tant'è vero che aiutò anche la conduzione e la conclusione del famoso Concilio di Trento. Poco dopo fu nominato amministratore apostolico della diocesi di Milano. Attenzione, non era ancora prete, non era ordinato sacerdote, era una rendita. Purtroppo erano quegli anni duri della vita della Chiesa. E però una volta nominato amministratore sentì il desiderio, il richiamo sempre più vivo a dedicarsi al Signore. Le letture, gli incontri con personalità religiose impegnate per la restaurazione della vita cristiana tracciarono il suo cammino verso una totale dedicazione al ministero pastorale. Per questo chiese di essere ordinato sacerdote, che gli fu conferito nel 1563, e il 7 dicembre dello stesso anno, il giorno dell'ordinazione di Sant'Ambrogio, si fece consacrare vescovo. A quel punto chiese e pretese allo zio Papa di venire a Milano a fare il vescovo. Pensate che prima che Carlo Borromeo venisse a risiedere a Milano, erano 51 anni che i vari vescovi di Milano non abitavano a Milano, ma abitavano a Roma, alla corte papale. E qui mandavano avanti la diocesi per mezzo di loro collaboratori, riscuotevano, triste dirlo, le rendite economiche attraverso i loro amministratori e loro risiedevano alla corte del Papa. Cosa facevano? Non lo so io cosa facevano. Allora Carlo chiede di venire a Milano e qui comincia a fare la rivoluzione cristiana. Si consacrò totalmente al servizio episcopale con una intensa vita di preghiera, di ammirevole impegno pastorale e di austera penitenza. Di notte facilmente stava alzato a pregare e a fare penitenza e si mise a riformare la Chiesa. Si parla di riforma protestante e di controriforma o riforma cattolica, sono cose che si studiano a scuola, ma a Milano Carlo l'ha messa in opera e attraverso, diciamo, gli strumenti della gestione della Chiesa, i sinodi, i concili provinciali. Era una diocesi vastissima la sua. Pensate che prima di lui non esistevano i seminari. Uno diventava prete andando ad abitare presso un prete e imparando, diciamo, a bottega, no? Come un garzone imparava il mestiere, uno imparava a fare il prete lì. Lui volle i seminari dove si studiasse seriamente. E volle riformare, ma amici, sarebbe interessante leggere tutta la vita sua. Qualcuno che è collegato con me con internet, io gli manderò un bel fascicolo di un 8-10 paginate sulla vita sua. È una meraviglia, è una meraviglia. Riformò veramente la Chiesa che aveva bisogno. Il clero viveva in una situazione di scarsa formazione e di scarsa vita cristiana. Poi i santi c'erano anche a quel tempo, ma mediamente parlando il livello del clero era molto basso e anche le famiglie religiose. E pensate che un frate, un religioso, non volendo accettare che diciamo il suo istituto fosse riformato, gli ha sparato un colpo di archibugio mentre era in preghiera e l'ha mancato, per fortuna. E insomma, lasciò vari scritti utili soprattutto per i vescovi e promosse un catechismo per i parroci. Sarebbe da ridere se non ci fosse da piangere. Un catechismo per imparare a far bene il parroco. E fu un uomo personalmente santo, davvero, no? Schivo dagli onori, difese con fermezza i diritti e le libertà della Chiesa. A Milano c'erano gli spagnoli, Ci fu la peste, quella vera, la peste che ha decimato la città, e organizzò l'assistenza ai malati. Ancora oggi nella nostra diocesi ci sono le cosiddette crocette di San Carlo, qui nella città a Gorgonzola dove ero io ne è conservata ancora una, un crocicchio, dove si diceva la messa all'aperto durante la peste, non si poteva dirla dentro nelle chiese, no? E furono fatti i famosi lazzaretti. Quando trovate una via, via Lazzaretto, perché in quel tempo c'erano i lazzaretti, cioè ospedali, chiamiamoli così, ricoveri, dove gli appestati venivano ricoverati. E durante la peste si diede da fare anche lui, spogliò il palazzo vescovile dei tendaggi, degli addobbi, per farne tende, coperte, materiale per venire in soccorso dei malati appestati. E mentre si trovava nella solitudine del Sacro Monte di Varallo, per alcuni giorni di esercizi spirituali suoi, fu assalito dalla febbre, fu riportato lungo la via fluviale del Lago Maggiore, del Ticino e del Naviglio a Milano, dove morì il 3 novembre 1584 all'età, pensate, di 46 anni. Concludo, ma sarebbe interessantissimo, io invito a leggere la vita di questo santo chi vuole, perché è affascinante come un romanzo, ma è vera come la vita vera. Per esempio, lui percorse la vastissima diocesi di Milano, oggi è ancora forse la più popolosa del mondo, con 5 milioni e mezzo di abitanti, ma a quel tempo era anche tra le più estese, non c'erano ancora le diocesi missionarie estese come oggi, no? E pensate che la diocesi di Milano comprendeva tutto l'odierno Canton Ticino in Svizzera, arrivava fin su alle Alpi, fino al passo del San Gottardo. Questo è testimoniato dal fatto che anche in tutto il Ticino e in tutta la zona del Novarese, la zona, ci sono in giro dappertutto statue o dipinti di San Carlo, che è facilissimamente riconoscibile dal naso a becco. Aveva un naso molto pronunciato. Quando vedete uno vestito da cardinale, così, quello è San Carlo. Ecco, ringraziamo Dio di questi giganti. Ci sono ancora oggi, Se voi guardate anche i papi, ne hanno fatto santo uno dopo l'altro. Se voi guardate ancora dei grandissimi santi, io vi invito a conoscere Gesù attraverso la Bibbia, ma vi invito anche a conoscere come si imita Gesù anche attraverso la vita dei santi, e così sia.